una vecchia. Jonas e la balena. Un po' di volume alla traccia. Avanti, solo da testi nervi, quaglia l'ore amaro sotto ai denti. Voglio avere la forza di reagire, voglio il tempo organizzare ed attaccare. Solo il cambio di questa merda indietro può storpiare il presente che va avanti. Quante botte dovrò poi sopportare, sapendo che noi poi saremo in tanti. Repressione mentale e psicofisica, depressione normale con questa realtà. Mille sogni sedati dalla plastica, sconfitti da una guerra che non è dichiarata. Ma esplode come un tuono, mi rimbomba nella testa, mi lacera gli sguardi, mi violenta. Sono stata anche più cazzata di quest'oggi che sta scrive sopra un treno che mi porta dove io non voglio andare. A volte l'incoerenza mi tormenta fino a farmi piangere, ma continuo ad incrociare sempre uno sguardo complice. Voglio questa luce della settica legalità, mi muovi in mezzo al buio supportando clandestini. Ancorandomi più saldo alla ferma convinzione che non basta chiacchierare. Io non voglio la ragione. Mai ti e tanto girano per strada carri uomini al mattarlo. 20.000, 2 milioni, creano un bel problema al traffico. Ma che cosa si nasconde fra le canne e l'ostruzione? E la loro persistenza a non voler far niente. Io spero vivamente intanto che qualcuno gli apra gli occhi e veda che il potere è fin sotto le lenzuola. Ho deciso di studiare, sarò maestro di una scuola. Una favola da vomito, perché per strada voglio il panico. Autorizzazione, porta in giro sta passione verso lacrime e poi vomito, perseguire il suicidio. Senza autorizzazione, porta in giro sta passione verso lacrime e poi vomito, perseguire il suicidio. Repressione mentale, psicofisica, depressione normale con questa realtà. Ribellione, i carri armati bruciano, l'ultimo respiro di chi di morire non c'è tempo. Lavoro di merda. Potrebbe essere peggio. E come? Potrebbe piovere.